La sentenza è una sentenza che sicuramente è storica perché riconosce l'esistenza di una situazione in Libia che il pubblico ministero durante la sua requisitoria ha paragonato a quella dei campi nazisti di concentramento. È stato riconosciuto colpevole l'imputato del sequestro di persona con la conseguente morte, le violenze sessuali e anche le torture. Non sono state qualificate giuridicamente come tali, però il fatto era decisamente questo. Nonché ovviamente la tratta delle persone poi spedite in Italia sui barconi. E la fotografia che la sentenza dà, anche se solo abbiamo il dispositivo, è decisamente paragonabile a quella di un lager nazista. Avete definito storica questa sentenza perché è la prima volta che viene appurato per via giudiziaria una realtà del genere? Sì, è la prima volta. L'altro elemento sicuramente caratterizzante questa sentenza è il fatto che si è trattato di una sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Milano, quindi da un giudice italiano, che riguardava però dei cittadini stranieri, somali, e un reato commesso all'estero, e come tale queste due caratteristiche rendevano indispensabile il placet del Ministro di Giustizia per poter effettuare il processo, placet che c'è stato. Il Ministro di Giustizia ha richiesto dalla Procura di Milano, ha dato l'autorizzazione al processo e quindi è stata radicata la giurisdizione di un giudice italiano, seppur il fatto era commesso all'estero nei confronti di cittadini stranieri. Quindi il governo si è preso la responsabilità, diciamo, di valutare attraverso l'organo della magistratura italiana una situazione come questa, seppur commessa in Libia nei confronti di cittadini non italiani. Questo apre però anche una riflessione politica, e il comunicato dell'ASGI, insomma, lo puntate chiaro, perché non passerà inosservato agli occhi degli ascoltatori, alle orecchie degli ascoltatori e delle ascoltatrici, il fatto che il governo italiano ha fatto alcuni accordi con una parte, insomma, delle autorità libiche. E dunque forse una sentenza del genere impone anche un cambiamento di queste politiche. È una sentenza che, diciamo, fa un po' stridere quello che il braccio destro fa rispetto a quello che fa quello sinistro, perché se il corpo è unico, il governo, sicuramente il Ministro della Giustizia, autorizzando il fatto di un processo come questo, va un po' contro quello che sembra fare invece altro organo del governo, appunto con le politiche migratorie nei confronti di cittadini che vengono dalla Libia, di cittadini stranieri che vengono dalla Libia. Sicuramente un po' di incoerenza si vede, però questo è un commento politico, non giuridico. Chiaro. Però insomma ci sono diverse anche inchieste giornalistiche mai smentite che testimoniano come coloro che prima si occupavano della tratta di esseri umani ora sono le stesse persone, o perlomeno molto vicine a quelle che stanno fermando i flussi. Sempre dal punto di vista politico, insomma, non giuridico, l'accertamento di torture che avvengono deve dare da riflettere. Sì, dirò di più, però leggeremo se nella motivazione della sentenza verrà fatta menzione di questo. Tutte 17 le persone che hanno riconosciuto nell'aguzzino del campo l'imputato hanno fatto una dettagliata ricostruzione di quello che è stato il loro percorso dalla Somalia alla Libia attraverso il Sud Sudan e il Kenya, con dei passaggi alle diverse frontiere, tutte alimentate da dei passaggi illegali chiaramente pagati come parte del prezzo del loro viaggio, quindi evidentemente con una connivenza delle diverse autorità locali. Anche questo fa riflettere. Sotto il profilo giuridico, come dire, si possono ravvisare delle illegittimità perlomeno o di illegalità rispetto al diritto internazionale, il fare accordi con soggetti che poi si rendono protagonisti del mancato rispetto dei diritti umani? Io non mi spingo tanto oltre, lascio ad ASGI la risposta. Il dubbio viene sicuramente.